seriamente per quello che non so. Curato umanamente, curato umanamente, con decenza e naturalezza. Fra troppo tempo ho confuso l'amore con il senso di colpa. Ho fuso e confuso quello che ero prima per dormire, guardarti. Per troppo tempo, per troppo tempo, per troppo tempo.